sentire la tranquillità, quelli che contano la povertà, ma che non sanno che cosa è, sono una consone di collera contro gli uomini che fanno politica. Dopo tanto tempo sempre aspettare qualche cosa che nessuno conosce, sono la guerra tra l'illusione e la realtà che dava il cuore, sono gli occhi che hanno veduto un paese di fortuna, sono un uomo felice, l'amico dei combattimenti perduti, sono un amico della libertà, ma non ho morti fratelli, sono la guerra tra l'illusione e la realtà che dà mal il cuore. Sono gli occhi che hanno veduto un paese di fortuna. Ma tu dici che bisogna essere paziente, se bastasse gridare il mio odio, o niente di più a piangere. Quando sei lontano di me, voglio trovare le forze di scrivere, che amarti è anche l'immenso per me. Sono un desiderio in ogni senso, sono disperato, ma fino voglio vivere.